dato della Lega è allo stesso tempo un dato inaspettato e un dato fin troppo atteso. Fin troppo atteso perché ormai da molti mesi abbiamo visto che la Lega nei sondaggi era sopra il 30%, quindi il 34% che ha ottenuto alle europee di domenica scorsa da questo punto di vista non ci sorprende. Inaspettato perché nell'ultimo periodo abbiamo visto una maggiore aggressività comunicativa da parte del Movimento 5 Stelle, una certa, diciamo, insofferenza della Lega a questo ritrovato attivismo del Movimento 5 Stelle, in particolare a partire dal caso Siri. In più, durante le ultime due settimane, prima delle elezioni, che sapete che c'è il blackout sui sondaggi, è vietato diffondere i sondaggi, si diceva che le rilevazioni stessero mostrando una Lega in leggero calo e un Movimento 5 Stelle in ascesa. Quindi sembrava che, diciamo, il distacco tra i due partiti si dovesse accorciare nelle urne rispetto a quanto visto fino a quel momento nei sondaggi. Alla fine poi il risultato è stato completamente diverso, che da un lato abbiamo avuto una Lega molto alta, al 34%, e dall'altro abbiamo avuto un crollo del Movimento 5 Stelle. Sì, anche il crollo, diciamo, che ha superato dall'altra parte le aspettative, nel senso che se si poteva immaginare che non avrebbero riconfermato il 30% delle politiche, non ci si aspettava forse un crollo così netto. No, anche perché per i 5 Stelle vale il discorso esattamente speculare a quello della Lega. Cioè, ormai da molti mesi vedevamo che calavano nei sondaggi, che scendevano fino sul filo, appena un filo sopra il 20%, e che hanno rischiato a un certo punto il sorpasso da parte del Partito Democratico dopo l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario. Però c'è stato questo crollo inaspettato. Perché inaspettato? Perché sempre durante l'ultimissimo periodo, le ultime settimane, si diceva appunto che il 5 Stelle fosse in ripresa per via della ritrovata, diciamo, verve comunicativa del movimento e del suo leader, in particolare Luigi Di Maio, che da un lato si è posto come baluardo progressista per contenere le derive, diciamo, di destra di Salvini, e dall'altro cercava di porsi come l'argine moderato all'estremismo di Salvini, persino sul tema dei conti pubblici, che non è esattamente quello più congeniale al Movimento 5 Stelle. Quindi per entrambi i partiti si tratta di un risultato dal lato annunciato da tempo, dall'altro che ha sorpreso un po' tutti gli osservatori. Ecco, questi due risultati insieme, quelli dei due alleati di governo, in realtà, sorprendendo ognuno a suo modo, poi hanno portato al fatto che, diciamo, le due maggioranze sommate comunque vanno a riformare la stessa percentuale delle politiche del 2018, nel senso che nonostante l'incredibile aumento dei voti alla Lega, l'altrettanto incredibile scesa del Movimento 5 Stelle alla fine fa sì che non sia aumentata, diciamo, la percentuale complessiva di questo governo. Secondo te, passiamo poi anche a un altro dei punti allineato, ovvero quello dei flussi dei voti. Questo ha a che fare col fatto che in qualche modo sono interscambiabili gli elettori di Movimento 5 Stelle e Lega? Sì, questa è una suggestione interessante, nel senso che, come dire, il totale effettivamente dei voti presi dai due partiti è simile a quello ottenuto alle politiche dell'anno scorso. In realtà l'anno scorso avevano preso un po' di meno, avevano preso esattamente il 50%, quest'anno più del 51%, ma il risultato non cambia, diciamo. È sorprendente come si siano quasi esattamente invertiti i ruoli, e cioè come il 5 Stelle sia passato dal 32,7 al 17 e come la Lega sia passata dal 17,4, credo di ricordare, al 34,3, quindi si sono veramente scambiati i ruoli. Credo che ci sia una grossa, non che l'elettorato sia intercambiabile, questo non lo credo, però credo che ci sia stato un grosso passaggio da un partito all'altro da parte degli elettori. Cioè, ci sono molti elettori che l'anno scorso avevano votato Movimento 5 Stelle, presumibilmente perché incarnavano in misura più credibile il cambiamento, che ormai da diversi anni è il primo, diciamo, driver di voto nelle elezioni in Italia. Tende a votare per il partito che incarna in modo più credibile il cambiamento. Era successo già nel 2013 con il Movimento 5 Stelle, è successo nel 2014 con il Partito Democratico di Renzi ed è successo nuovamente con il Movimento 5 Stelle alle politiche dell'anno scorso. Ecco, quest'anno Salvini e la Lega si sono fatti, come dire, hanno interpretato nel migliore dei modi il soggetto politico più in grado, più credibile quando si tratta di cambiare le cose, di fare le cose. E questo ha portato molti ex elettori del Movimento 5 Stelle a votare per la Lega, come già abbiamo visto succedere del resto nelle elezioni regionali dei mesi scorsi. Restando un po' sulla debacle del Movimento 5 Stelle, vorrei spostare un secondo l'analisi, diciamo, anche su quelle che sono state le amministrative. Per esempio, voi segnalavate il fatto che il Movimento 5 Stelle in qualche modo tiene nel sud Italia, nella provincia di Lecce, per esempio, alle europee il Movimento 5 Stelle si è attestato quasi sul 22%, alle comunali in realtà sempre a Lecce il giorno dopo il Movimento 5 Stelle, se non mi sbaglio, non ha superato superato neanche il 10%. Una cosa simile, per esempio, in Emilia Romagna è successa in molti comuni con la Lega, che aveva preso il 40% alle europee e poi invece è stata battuta abbastanza clamorosamente dal centro-sinistra alle amministrative. Ti volevo chiedere anche un po' un commento a questa fluttuazione del voto su due schede che sono state consegnate, diciamo, nello stesso momento elettorale. Sì, da questo punto di vista in realtà riscontriamo due conferme di elementi che erano già emersi in passato. Il primo è quello che vede il Movimento 5 Stelle maggiormente penalizzato nel voto amministrativo rispetto al voto politico. Per voto politico intendo anche le europee, che sono viste come un test nazionale da tutti i punti di vista, mentre il voto amministrativo risponde ad altre logiche. Secondo queste logiche, ormai da anni abbiamo imparato a vedere come il Movimento 5 Stelle sia effettivamente meno attraente per gli elettori quando si tratta di votare per il proprio comune, per la propria amministrazione, si pensi alle regioni, che il Movimento 5 Stelle non ha mai vinto, anche a pochi mesi di distanza, da percentuali altissime fatte registrare le politiche pochi mesi prima. Quindi questo in realtà è una cosa che non ci sorprende. Non ci sorprende neanche vedere uno scarto forte tra il voto alla Lega andato a partire di Salvini alle europee e quello registrato nello stesso giorno alle comunali. Questa in realtà è una tendenza che noi avevamo già visto già 5 anni fa. 5 anni fa si votò allo stesso modo per le europee e per le amministrative nello stesso giorno, e in quel giorno si verificò uno scarto abbastanza netto tra il voto al Partito Democratico, che era incarnato da Renzi in quell'ottica di voto politico nazionale, che erano appunto le elezioni europee, e il voto che invece poi andò al Partito Democratico nelle amministrazioni. Ci furono diversi casi di comuni in cui il Partito Democratico ottenne dai 10 ai 15 punti in meno nello stesso comune rispetto a quando aveva ottenuto, a quanto aveva ottenuto alle europee. Quindi questa è una dinamica che si presenta spesso. Entrambe le dinamiche, sia quella che riguarda i 5 Stelle sia quella che ha riguardato il PD nel 2014 e Salvini e la Lega nel 2019, quindi domenica scorsa, sono due tendenze che ci dicono una cosa, cioè gli elettori hanno perfettamente la nozione di ciò che stanno votando, cioè sanno distinguere molto bene tra un voto politico, europeo, regionale e comunale, e quindi scelgono di conseguenza. In questo ovviamente sono anche aiutati dal diverso design, dalla diversa struttura che c'è sulle schede elettorali, quindi da questo punto di vista, diciamo, si conferma una capacità dell'elettore italiano di saper individuare molto bene per cosa sta votando. E a questo punto ti farei una domanda anche sul PD, visto che lo abbiamo nominato. Il PD intanto riparte dal secondo posto, in qualche modo supera, forse anche oltre le aspettative, il Movimento 5 Stelle, forse un po' più, diciamo, per il crollo del Movimento 5 Stelle che non per invece una salita del PD, ma soprattutto vince in quasi tutte le grandi città il giorno dopo alle amministrative. Sì, su questo si conferma anche in questo caso una tendenza che noi avevamo già visto l'anno scorso, le politiche, e cioè il fatto che il Partito Democratico, qualcuno l'ha chiamato il partito delle ZTL, perché non solo ottiene i suoi migliori risultati nelle città con il maggior numero di abitanti, ma in particolare fa registrare i migliori risultati nei quartieri centrali, quindi quelli dove tendenzialmente il reddito è più alto e le condizioni di vita sono migliori. Quindi questa è una cosa che si conferma in questa tornata elettorale. Ma per quanto riguarda il Partito Democratico, sono personalmente in disaccordo con chi sostiene che sia trattato di un sorpasso in retromarcia Movimento 5 Stelle. Stamattina sui giornali si leggeva anche questo. Il punto è che è vero che il Partito Democratico ha ottenuto meno voti in assoluto rispetto alle politiche dello scorso anno, ma ciò è dovuto essenzialmente al fatto che l'affluenza è diminuita di quasi 20 punti rispetto alle politiche, e in questi 20 punti in più gli elettori che l'anno scorso avevano votato e che oggi non hanno votato, ci sono anche verosimilmente molti ex elettori del Partito Democratico. In realtà le analisi sui flussi ci dicono che i voti in meno che ha avuto il Partito Democratico sono stati, diciamo, compensati da flussi che provengono effettivamente da altri partiti, in primis dal Movimento 5 Stelle, ma anche da altri soggetti minori come Liberi Uguali o Forza Italia, o addirittura elettori che si erano astenuti alle politiche dell'anno scorso. E a proposito di affluenza, il dato italiano definitivo, perché in realtà nell'arco della giornata le prime due registrazioni dell'affluenza erano più alte rispetto alle precedenti europee, il dato italiano definitivo invece è stato più basso rispetto alle precedenti europee, tra l'altro in controtendenza con la tendenza appunto europea invece ad un aumento dell'affluenza che si è vista più alta a livello generale, in un'Italia peraltro che, diciamo, storicamente si è sempre connotata per essere un paese che alle europee partecipava con una moderata affluenza e partecipazione, diciamo. Ti chiederei un commento anche su questo dato. Sì, allora in realtà l'affluenza, il tasso di partecipazione in ciascun paese risponde essenzialmente a stimoli di natura, diciamo, locale, quindi in ciascun paese ci sono diverse motivazioni elezioni che fanno sì che gli elettori vadano più o meno a votare. In questo caso, in questa occasione, si è registrato un aumento consistente, bisogna dire anche perché per la prima volta sembrava esserci in gioco qualcosa che coinvolgeva tutti gli europei, cioè la messa in discussione dell'Unione Europea stessa. Non dimentichiamoci che negli ultimi 5 anni, quindi dalle ultime elezioni, sono successe cose abbastanza importanti che hanno avuto un impatto forte sull'opinione pubblica europea. Basti pensare alla Brexit, ma anche a quello che era successo prima con la Grecia e con la crescita che si è registrata nelle varie elezioni nazionali dei partiti populisti ed euroscettici. Quindi, insomma, negli ultimi 5 anni si è sviluppato un po' di più quello che ancora secondo me è un livello insufficiente, il cosiddetto discorso pubblico europeo, cioè si sta creando piano piano un'opinione pubblica, uno spazio politico di discussione non più solo nazionale ma anche europeo, e questo probabilmente ha portato a un maggiore coinvolgimento degli elettori. Per l'Italia il dato è un po' in calo, perché effettivamente noi storicamente abbiamo, diciamo, partecipato alle elezioni non solo europee ma anche nazionali in misura maggiore rispetto alla media europea, però direi che si tratta sostanzialmente di un dato stabile. Ci vedo più o meno lo stesso pattern, lo stesso percorso che si era visto l'anno scorso alle politiche, cioè una sostanziale tenuta rispetto al voto di 5 anni prima, anche se in leggero calo. Ecco, non mi sembra che ci sia una lezione particolare da trarre da questo dato. È interessante, come abbiamo fatto vedere anche fin dalle prime ore di domenica, quando sono stati diffusi i primi dati sull'affluenza, dicevo, interessante vedere come l'affluenza sia cambiata in misura asimmetrica nelle varie parti del paese, e che effettivamente è calata molto di più nelle regioni del sud, sempre con riferimento alle politiche 2018, che nelle regioni, nelle province del centro-nord. Quindi, diciamo, tra l'altro è calata molto di più in quelle regioni in cui in qualche modo il Movimento 5 Stelle ha tenuto. Sì, esatto, io la vedo in maniera opposta, nel senso è calata di più laddove il Movimento 5 Stelle era stato più forte l'anno scorso e dove è anche stato più forte ora. Però a parità, diciamo, di condizioni, se l'affluenza cala più in certi posti che in altri, se in quei posti dove l'affluenza cala di più il risultato del partito era stato minore l'anno precedente, nella tornata precedente, allora il calo di voti sarà più marcato. Ecco, questo era una tendenza che in effetti avevamo cominciato a quantomeno a intuire già dai primi dati di affluenza.